Dunque, ci informa Francesco Merlo su Repubblica di mercoledì scorso che tale John Sutherland, professore di letteratura inglese all'Università di Londra, ha sfidato i suoi studenti a ridurre l'Ulisse di Joyce a 160 battute, che è la capacità massima di un SMS, e che costoro, invece di pensare all'opportunità di cambiare docente, alla sfida si sono appassionati, tanto che è nato un avventuroso gioco alla moda che oggi fa furore su internet, in appositi siti attraverso i quali una quantità di brave persone si sforza di far rientrare in quella precisa misura, 160 battute, Conrad dei Promessi Sposi, Moby Dick e Dante, e quali altri testi possa offrire la tradizione narrativa mondiale. La notizia in sé non sembra tale da meritare la prima pagina che pure le è stata attribuita. Giochi di questo genere, a prescindere da internet e dalla capacità degli SMS, se ne sono sempre fatti. Ne testimonia tra gli altri Umberto Eco, che nelle sue rubriche, se ben mi ricordo, si è diffuso spesso sul piacere che taluni gruppi intellettuali provano nel ridurre la trama delle ultime lettere di Jacopo Ortis a uno scorrettissimo lei non gliela dà e lui si ammazza, o quella di Casablanca a un salace due amici riescono a liberarsi di una donna molesta. È un esercizio tutto sommato innocuo e in certi casi non completamente futile, nel senso che lo sforzo di brevità può condurre, se tutto va bene, a dare risalto a quelle strutture di fondo del testo che l'effusione narrativa talvolta tende a celare. Volendo, e senza esagerare, gli si potrebbe riconoscere persino una certa valenza critica. Perché di una narrazione dalla quale non sia possibile estrapolare in nessun modo un riassunto, beh, sarà sempre opportuno diffidare. In ogni caso, dalla diffusione di un gioco che presuppone la conoscenza di un certo numero di pilastri della narrativa mondiale e invita a lavorarci sopra, non dovrebbe lamentarsi nessuno cui la cultura letteraria stia un poco a cuore. Ma che? L'articolista è preoccupatissimo. Per lui la diffusione del fenomeno significa che il pensiero narrante, l'affabulazione, è stata consegnata ai digitantes, quelli che scrivono perché con la X, NN invece di non, PM per pomeriggio, CMQ per comunque, con il risultato che la poesia cosmica intimistica di Leopardi diventa una sequela di suoni consonantici, una implosione fonica, na fragorme dulce in queste morte. L'idea che presiede a queste deformazioni, a suo avviso, è quella per cui le vocali sono il grasso della comunicazione e che in una visione anoressica del mondo anche le belle frasi come le belle ragazze dovrebbero perdere l'adipe a favore del pensiero palestrato. Se vi chiedete cosa c'entra il pensiero, vi dirò che quei fonemi, infatti, sarebbero tutte espressioni del dominio del pensiero corto, che ormai ha sostituito quello debole nell'andazzo culturale corrente. Per cui è come se bisognasse vergognarsi di essere pensatori, di tenere il pensiero come si detiene un'arma, una spada, una scimitarra, una durlindana, che sarebbe meglio intanto accorciare e poi magari far sparire. Perché nella filosofia del pensiero corto, pensare è ritardare il rapporto con le cose e dunque chi pensa non vive e chi articola il pensiero disarticola la vita. Siamo appena all'inizio, ma non è il caso di seguire più a lungo l'autore in questo suo personale delirio. Io vi confesso, non saprei dirvi se la prospettiva che incombe sul mondo sia quella di un pensiero del tutto disarticolato. Né d'altronde, nella mancanza di precisi riferimenti, ho capito che si rivolgesse la polemica e so che questo tipo di articoli si scrivono sempre contro qualcuno. Immagino che per pensiero corto si intenda un modo di ragionare apodittico che procede per affermazioni autogiustificantisi e rifugge da strutture logiche troppo complesse, cioè un non pensiero che nell'accezione dell'intellettuale italiano medio è sempre quello degli altri, e quando gli intellettuali cominciano a rivolgersi l'un l'altro l'accusa di analfabetismo, il saggio notoriamente si leva di torno. Ma è curioso è curioso, lo ammetterete, un modo di procedere che desume la brevità del pensiero dalla brevità delle parole che si impiegano per renderlo pubblico e misura questa brevità dal numero delle lettere con cui le si scrive. Che significa passare senza se e senza ma dal campo della logica a quello dell'ortografia, saltando a più pari la semantica. E omettere le vocali nella scrittura è pratica largamente in uso tra i parlanti una quantità di lingue, tutte quelle semitiche per esempio, o quelle che pur di altra origine utilizzano l'alfabeto arabo. E anche se non è prevista dall'ortografia italiana corrente, è comunque omogenea al principio per cui scrivendo non si cerca mai di indicare tutte le opposizioni fonetiche di una parola, ma si confida nella capacità di integrazione di un interlocutore dotato della stessa cultura di base. Sapete anche voi che scrivendo in italiano non si notano tutti gli accenti, né si distinguono le E o le O aperte e chiuse, o la S e la Z sorde e sonore, ma questo, salvo che per gli studenti di prima elementare, non crea particolari difficoltà. E il fatto è che anche nello scrivere, come in qualsiasi altra attività umana, vale un certo criterio d'economia, per cui l'eccessivo accumulo di particolari rende il prodotto meno perspicuo. E questo criterio naturalmente è destinato ad evolvere a seconda delle necessità e delle disponibilità del materiale scrittorio. E se per un messaggio ho a disposizione solo 160 caratteri, una certa selezione dovrò ben farla. E l'unico criterio di velocità, tutto sommato, dipenderà dal fatto che i destinatari capiscono meno quello che intendevo comunicargli. Ma le parole, scritte con le vocali o senza, viva Dio, restano sempre le stesse. E identico resta il loro valore semantico. Il rapporto tra pensiero e linguaggio è di tipo dinamico, non referenziale. Ignora questo tipo di problemi. Il peso di un'affermazione non ha niente a che fare con quello del supporto su cui la si scrive, per cui una cazzata incisa su un masso di granito o stampata su un quotidiano ad alta tiratura resta sempre una cazzata. Mentre un'affermazione geniale scarabocchiata su un foglietto di carta velina non perde la sua validità e l'articolazione del pensiero non dipende, ripeto, non dipende dalla lunghezza materiale delle parole. Sembra facile, no? Ma la cultura italiana, fedele a una tradizione che chissà perché continua a chiamare umanistica, crede nelle parole e nei paroloni, nella frase diffusa e diffusa, nel ragionamento che non ha fretta di giungere a conclusione, anche perché non è detto che conclusione ci sia. Vede in ogni sforzo di coincisione un atto di lesa maestà, in ogni tentativo di adeguamento ortografico un alto tradimento ai danni del Petrarca, alle cui consuetudini in merito ci siamo inchiodati da 6 secoli. Crede, più in generale, nell'utilità di allungare quanto più possibile il brodo del discorso, nel tirare avanti almeno per un quarto d'ora quello che si potrebbe benissimo sbrigare in 5 minuti, perché altrimenti i suoi praticanti, che su esercizi di questa fatta hanno basato la propria educazione, non avrebbero nulla da fare e finirebbero inesorabilmente per morire di fame. E per questo probabilmente, e non per altro, che un noto critico letterario sente il bisogno di impiegare 2 colonne di stampa per spiegarci che per scrivere l'Ulisse di Joyce servono più di 160 battute. È un'informazione preziosa, di cui lo ringraziamo di cuore, ma francamente lo sapevamo già.